mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci, buongiorno a tutti, bentornati al podcast di Effetto Giorno. Al microfono come sempre c'è Simone Spezia, i contatti come sempre per dirci quello che ne pensate, per dirmi quello che ne pensate, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, e se volete anche il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia, mi trovate anche là se volete. Mi raccomando, se avete scaricato per caso questo podcast, iscrivetevi, lo dico sempre, chi è un abituale ascoltatore del podcast magari si stancherà un po', ne chiedo scusa naturalmente, iscrivetevi così avrete gli aggiornamenti costanti. La giornata di oggi è una giornata naturalmente che tiene in gran conto le vicende della Libia, che si incrociano con vicende interne, perché se da una parte c'è tutto il tentativo di trattativa diplomatica a fronte dell'avanzata di ISIS nel paese, del califfato nel paese, dall'altra parte si continuano a ventilare ipotesi di interventi armati e ci sono altri punti che entrano nella discussione e sono l'allarme terrorismo da una parte per quanto riguarda l'Italia naturalmente e dall'altra parte l'aumento degli sbarchi. Questi due elementi, questi ultimi due elementi parzialmente collegati come sentiremo. Su questo tra l'altro abbiamo sentito sulla possibilità di un intervento militare, su quello che effettivamente possono fare le Nazioni Unite, perché è quello che ci stiamo chiedendo un po' tutti in queste ore. Abbiamo sentito anche il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi e ascolteremo la sua voce. Sempre rimanendo all'estero, ci sono i primi segnali di distensione, se così vogliamo, dall'Ucraina, anche se restano dei problemi nello snodo ferroviario di Debaltseve. Ci sono questioni come il ritiro delle armi pesanti da parte dei ribelli filorussi che fanno ben sperare per un calo della tensione. La cronaca ci porterà a riassumere un po' quello che è successo per quanto riguarda Veneto Banca. Come sapete c'è un'indagine aperta dalla Procura di Roma, l'ipotesi è di ostacolo alla vigilanza, l'ipotesi di reato sulla quale si sta indagando è ostacolo alla vigilanza ed è l'ennesimo caso che però riguarda le banche popolari in un periodo nel quale sono naturalmente nel mirino anche a causa del decreto varato dal governo. Sempre in tema di cronaca andremo a sentire quello che è successo ai funerali di Michele Ferrero, morto sabato, grandissimo imprenditore. Sentiremo anche il commento di un altro imprenditore, il ricordo di un altro imprenditore che è Andrea Illi. Per rimanere su questa scia e quindi sull'economia ci occuperemo della Grecia, che in queste ore sta preparando un nuovo piano, si sta preparando ad accogliere un nuovo piano proposto all'Unione Europea, e poi ci occuperemo del referendum in Lombardia. Quale referendum? Ieri è stato votato alle 21 con l'appoggio determinante del Movimento 5 Stelle un referendum, naturalmente consultivo perché diversamente non può essere, che verrà tenuto tra i cittadini lombardi, nel quale i cittadini lombardi potranno decidere se dare o meno un mandato alla regione perché tratti con Roma per avere più poteri, maggiore autonomia. Ci sono state molte critiche che sono state rivolte al Movimento 5 Stelle proprio per questo voto. Ne parleremo con un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Iniziamo dunque dalla Libia con la cronaca e l'attesa per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel racconto di Laura Bettini. Sappiamo che dopo aver colpito dal cielo nei giorni scorsi le postazioni dei miliziani dell'ISIS, l'Egitto oggi ha compiuto la prima incursione terrestre a Derna sulla costa est, catturando a quanto pare 55 elementi dell'ISIS, secondo quello che riferiscono fonti libiche ed egiziane. forse a entrare in azione è stata la Task Force 999, che è un'unità speciale egiziana per operazioni internazionali. L'esercito libico intanto ha promesso una dura risposta agli attacchi di ieri, mentre il premier libico ha denunciato un pericoloso congiungimento di gruppi di Boko Haram e dell'ISIS al confine tra la Libia e la Tunisia. Il ministro degli esteri egiziano sarà oggi alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU a New York per ottenere l'appoggio internazionale all'azione militare che ha intrapreso il suo paese, ma non sarà facile che la ottenga, poiché già con la dichiarazione congiunta di ieri sera Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti si sono detti a favore di una soluzione diversa, formazione di un governo di unità nazionale in Libia e tramite questo contrasto all'ISIS, quindi un progetto di riunire le fazioni in cui si è dissolta la Libia del dopo Gheddafi affinché la risposta ai miliziani appunto islamisti arrivi dal paese stesso e non da una nuova coalizione dei volenterosi come fu in Iraq. Questa posizione è stata ribadita oggi alla Camera dal ministro degli esteri Gentiloni, che si è augurato poi che l'ONU rinnovi il mandato della missione UNSMIL per la Libia, la doti di mezzi e risorse utili ad accelerare il dialogo politico interno e la stabilizzazione. In questo contesto, ha aggiunto Gentiloni, l'Italia sarà pronta a intervenire per la ricostruzione materiale e immateriale post bellica. C'è un certo allarme proprio per il terrorismo, allarme rilanciato oggi dai media britannici, il servizio. Lo Stato Islamico vorrebbe utilizzare la Libia per portare il caos nell'Europa meridionale. È il Daily Telegraph oggi a lanciare l'ennesimo allarme terrorismo. Il quotidiano britannico cita un documento scritto da quello che viene considerato uno dei principali reclutatori dell'ISIS per la jihad nello Stato nordafricano. Il piano allo studio prevederebbe di trasferire miliziani in Libia, dalla Siria e dall'Iraq, per poi imbarcarli assieme ai migranti diretti verso le coste europee, sia per compiere attentati nel vecchio continente, sia per attaccare le compagnie marittime e le navi dei crociati, si legge nel documento la cui attendibilità è al vaglio dell'intelligence britannica. Al momento in Italia non sarebbero emersi riscontri su infiltrazioni di terroristi fra i migranti in arrivo sulle nostre coste, un rischio che però non viene sottovalutato da forze dell'ordine e servizi informativi. L'allerta terrorismo resta al massimo livello e ieri il Ministero dell'Interno ha dato il via libera all'impiego di 4.800 militari per la vigilanza attorno a siti e obiettivi sensibili. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Timori dunque collegati agli sbarchi di migranti in Italia. Tra l'altro ci sono una serie di altri problemi connessi, molte città del nord nelle quali i centri di accoglienza, particolarmente in Veneto, sono al collasso, ma al di là di questo naturalmente c'è qualche timore che con le persone che arrivano in Italia con questi barconi, tra queste persone si nascondano potenzialmente dei terroristi, timori che si sono accresciuti dopo l'attacco ad una motovedetta della Guardia Costiera. Il racconto è della nostra inviata a Lampedusa, Raffaella Calandra. Sono qui davanti al mare che è in tempesta del canale di Sicilia, ma anche oggi le onde alte e la pioggia battente non hanno impedito ancora ad un altro gommone di partire verso l'Italia dalle coste libiche. Altri 110 migranti sono stati infatti soccorsi in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, a circa 30 miglia dalla costa libica, e stanno per essere portati in Italia tra Lampedusa e la Sicilia, dove i centri di prima accoglienza ormai stanno già ospitando il doppio delle persone. Ma non sono soltanto questi numeri inusuali per questa stagione invernale a dare subito l'idea di un'emergenza sbarchi diversa, sono anche i racconti dei profughi, le violenze che hanno subito e le minacce dei giorni scorsi alle motovedette della Guardia Costiera. I controlli infatti in questi giorni sono diventati ancora più serrati, perché l'episodio di uno dei migranti che è stato gambizzato, che ha raccontato di essere stato appunto gambizzato perché non voleva salire su un gommone visto il mare in tempesta, e ancor di più i colpi d'arma da fuoco contro le motovedette sono sembrate agli analisti come un salto di qualità da parte degli organizzatori di questi viaggi verso l'Italia, quindi un segnale ulteriore della gestione da parte del califfato dei terroristi di questi viaggi verso il mare. Questo fa cambiare, e l'ho riscontrato in questi giorni, anche il clima da parte delle popolazioni che sono sempre state tradizionalmente ben disposte disposte ad accogliere chi arriva dal mare, lo sono tuttora, ma di sicuro aumenta il timore che tra le migliaia di profughi che stanno arrivando in questi giorni non ci possano essere anche qualche infiltrato, non ci possano essere anche delle persone che invece sono, diciamo così, mandate verso l'Italia dagli estremisti islamici, non semplicemente profughi. Dunque un rischio che si avverte molto forte in questa estrema periferia meridionale del paese. Della situazione libica e di quello che può fare la comunità internazionale, in sostanza, abbiamo parlato con il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, che tra l'altro è ex sottocapo di Stato Maggiore, quindi anche un generale, insomma uno che di queste cose se ne intende. E la prima domanda che gli abbiamo fatto è stata questa: va bene, volete perseguire la via del dialogo, la via, chiamiamola così, diplomatica, cioè cercare di mettere insieme tutte le fazioni libiche. Il ministro della difesa Roberta Pinotti dice: nessun intervento militare se non c'è l'egida dell'ONU, ma se l'ONU quest'egida, questo scudo, questa protezione ad un eventuale intervento internazionale decide di non darla, che cosa succede e che cosa facciamo noi di fronte ad un paese che è di fatto un nostro confine naturale? Sentiamo l'intervista con Rossi. Questa mattina nell'informativa data dal ministro Gentiloni sono state individuate due tappe. La prima è la riunione di oggi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma la seconda, non meno cruciale, è quella del prossimo rinnovo della missione USMIL, che ricordo è una missione instaurata nel 2014 proprio per favorire la ripresa, diciamo così, sotto qualsiasi punto di vista, dalla riconciliazione tra le parti anche allo sviluppo di carattere economico-sociale in Libia. E noi stiamo lavorando proprio perché questa missione venga dotata di un mandato, dei mezzi e delle risorse che siano in grado di accelerare il dialogo politico per stabilizzare e dare assistenza a un nuovo quadro che possa poi consentire eventualmente una missione. Nell'ambito di questo processo è chiaro, come questa mattina è stato ricordato, l'Italia è pronta ad assumersi tutte le sue responsabilità, che vanno sia dal contributo attraverso il mantenimento della pace o al monitoraggio del cessate il fuoco, per non parlare poi ovviamente di tutti quelli che possono essere gli interventi di carattere sociale o di infrastrutturale. Quindi non interventi militari al momento, non se ne parla? In questo momento non si parla di interventi militari. Quindi nessun supporto all'Egitto, per così dire, che in questo momento sta agendo nella zona? Anche l'Egitto ha avuto, diciamo, un riconoscimento della legittimità dell'azione, ma nel momento in cui ha chiesto una risoluzione che consentisse un intervento, diciamo, con una missione armata, questa risoluzione da parte dell'ONU non c'è stata. Senta, sottosegretario, altri ascoltatori, qua ci sono anche degli ascoltatori che ci scrivono, uno scrive: ma cosa pensano il governo di fermare l'ISIS con la diplomazia? Perché poi lo snodo, se vogliamo, è anche quello, dite il dialogo, la soluzione diplomatica, il dialogo tra le fazioni, e però là c'è il califfato, cioè ci sono uomini del califfato, e non è, con questi non è che si può dialogare un granché. No, assolutamente. Però noi non dobbiamo dimenticare quello che è già in atto. Già in atto è una coalizione internazionale di circa 60 paesi, di diversi paesi europei, che stanno già contribuendo. Noi stiamo contribuendo con armi, munizioni, equipaggiamenti, aerei e fra poco anche con addestratori e consiglieri militari allo sforzo di questa coalizione internazionale contro l'ISIS in senso generale. Ovviamente in questo momento l'attenzione è concentrata sulla Libia anche per motivi di carattere geografico, però questa coalizione militare che ci vede uno dei paesi più impegnati è già in atto da tempo. Sotto lo stesso mandato, per così dire, questa missione potrebbe estendere la sua azione alla Libia? La coalizione militare in questo momento non ha una missione di carattere di combattimento, ma solamente una missione di carattere addestrativo, nonché come consigliere aerei militari. Evidentemente in questo momento questo è il livello, bisogna capire un attimino come evolve la situazione sul terreno per capire se eventualmente su questa coalizione militare ci deve essere un impegno più attivo non solo da parte nostra ma anche degli altri paesi. Ricordiamoci che al di fuori della coalizione militare negli ultimi tempi per esempio sono intervenuti l'Egitto, come lei ha già ricordato, ma anche la Giordania dopo l'uccisione del pilota giordano. Quindi credo che la diplomazia è importante perché la diplomazia consente non solo di escludere in termini generali quella che è già stata chiamata per motivi propagandistici da ISIS o da Hamas una possibile crociata, ma quanto per coagulare attorno a un movimento anti-ISIS tutto l'Islam moderato, considerando che questa non è una guerra né di religione né di civiltà, ma è una guerra di uno Stato che ha adottato tecniche terroristiche che combatte contro i principi e i valori occidentali. Questo è il quadro della Libia, naturalmente in attesa di evoluzioni. Intanto c'è un'altra questione internazionale che è al centro dell'attenzione, in queste ore continua ad essere al centro dell'attenzione, ed è la questione dell'Ucraina, dove a quanto pare la situazione si sta placando, almeno così speriamo. Il racconto di Gigi Donelli. Effettivamente sembra una buona notizia, perché è una buona notizia anche se molte agenzie parlano di rischio e minaccia ripresa. Buona notizia perché, come è chiaramente espresso dalle forze in campo, la cosiddetta sacca di Debaltseve, cioè la presenza di 7.000 militari delle forze armate ucraine al centro del dispositivo degli indipendentisti, era ovviamente una bomba che doveva esplodere. La sensazione è che lo stia facendo forse nel modo meno distruttivo possibile. Chiaramente dall'altra parte c'è quella che è di fatto la costituzione, l'affermazione dello spazio autonomo dei ribelli filorussi. Basta citare a questo proposito che ancora una volta sembra che la Russia continui ad affermare quella politica che anche in Georgia, ancora l'ultima volta nel 2008, ha visto intervenire e poi lasciare una sacca di presenza militare, in quel caso dell'Ossetia meridionale, qui potrebbe diventare il Donbass. Siamo alla cronaca, innanzitutto con due o tre notizie in breve che vi voglio dare. La prima arriva dalla Procura di Torino che ha disposto 4 nuovi avvisi di garanzia nell'inchiesta sulle irregolarità nella raccolta di firme per la lista che appoggiava Sergio Chiamparino alle ultime elezioni regionali. I destinatari di questi avvisi di garanzia sono 4 funzionari del PD, finora gli indagati erano 6, quindi si raggiunge il numero di 10. Altre due indagini che ci interessano sono la prima riguarda ufficiali in servizio in congedo dell'aeronautica militare dell'esercito italiano, un viceprefetto, alcuni imprenditori che avrebbero truccato appalti per lavori nella caserma Pisano di Capoteulada, siamo in provincia di Cagliari, nel centro immigrati di Borgo Mezzanone, siamo in provincia di Foggia, e per forniture destinate all'aeroporto militare di Bari Palese. Sono 4 le persone arrestate, l'accusa è tra l'altro di corruzione, truffa aggravata in danno di ente pubblico, turbata libertà degli incanti. E la terza notizia che vi vogliamo dare in breve è quella che arriva dalla Guardia di Finanza di Sassari, che ha sequestrato 132 milioni di euro. Tutto questo nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita delle proprietà immobiliari della Costa Smeralda. L'indagine che cosa ha permesso? Ha permesso di ricondurre a tassazione in Italia 2 società che avevano sede in realtà in Lussemburgo. E che cosa hanno fatto? Attraverso l'operazione di cessione delle quote nel 2012 alla Qatar Holding Investment hanno incassato una plusvalenza di 482 milioni di euro, 482, avete sentito bene, non dichiarati al fisco. Siamo alla nuova tegola giudiziaria sulle popolari, con l'inchiesta che questa volta coinvolge i vertici di Veneto Banca. Si concentra sulla lista degli imprenditori che avrebbero potuto contare su una corsia preferenziale per ottenere sostegno economico, uno dei filoni dell'inchiesta della Procura di Roma su Veneto Banca, una delle popolari inserite nel decreto del governo per la trasformazione in SPA. Tra loro nomi noti come quelli di Stefanella, Zoppas, De Benedetti, Samori, ostacolo alla vigilanza il reato contestato all'ex presidente del consiglio di amministrazione Flavio Trinca e all'ex amministratore delegato e attuale direttore generale Vincenzo Consoli. Oltre ai crediti elargiti senza garanzie con conseguenti perdite per oltre 192 milioni di euro, gli altri filoni dell'inchiesta puntano sui finanziamenti concessi ai soci nonostante sia vietato e sulle false indicazioni trasmesse alla Banca d'Italia per mostrare una solidità patrimoniale lontana dalla realtà. Sullo sfondo dell'inchiesta, infatti, ci sono le due ispezioni fatte nel 2013 dalla Banca Centrale che hanno accertato la sussistenza di gravi anomalie nella gestione, tali da determinare una decurtazione del patrimonio di vigilanza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I funerali di un grande imprenditore, Michele Ferrero, che è scomparso sabato, il racconto di Alessandra Schepisi. Bagno di folle, è veramente il caso di dirlo, per i funerali di Michele Ferrero che si sono appena conclusi ad Alba. Migliaia di albesi si sono riuniti per l'ultimo saluto al patron della più grande industria dolciaria d'Italia, scomparso sabato all'età di 89 anni. Chi non è riuscito a entrare in chiesa ha seguito la cerimonia da vari maxi schermi montati in vari punti della città, tanti gli operai presenti con le tute blu della Ferrero, un'intensa partecipazione. Basti pensare che ieri ben 10.000 persone, un terzo dei cittadini di Alba, hanno reso omaggio alla Camera Ardente. Non sono mancate oggi le autorità, dal premier Renzi che poco fa ha detto siamo qui per onorare un grande italiano, all'ex presidente del Consiglio Prodi, dal governatore del Piemonte Chiamparino, al sindaco di Torino e presidente dell'ANCI Fassino. Presenti anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Carlo Magri, presidente della Federazione Pallavolo, una partecipazione legata alle tante collaborazioni del gruppo Dolciario con il mondo dello sport, e anche due delegazioni della Casa Reale del Belgio e del Principato di Monaco. Un lungo applauso accolto l'arrivo del feretro per la cerimonia che è stata officiata dal vescovo di Alba, Monsignor Giacomo Lanzetti. Per la famiglia a prendere la parola è stato il figlio Giovanni, che ha detto con la sua chiaro veggenza: mio padre ha reso pensabile l'impensabile. Anna Marino sulla figura di Michele Ferrero ha intervistato Andrea Illi, che è presidente e amministratore delegato dell'azienda che porta il suo nome, Illi Caffè, ed ecco che cosa le ha detto. Michele Ferrero è stato un imprenditore modello, un imprenditore che ha sempre concepito e sviluppato i prodotti in prima persona, a partire da una conoscenza profonda e molto rispettosa del consumatore. Connubio della conoscenza del consumatore, del suo orientamento al prodotto, è stato che ha sempre riuscito a fare dei prodotti unici, totalmente inimitabili e inimitati, offerti anche da know-how e brevetti, in maniera da assicurare un vantaggio competitivo duraturo alla sua impresa. E con questo ha creato nell'arco di pochi decenni un impero tali da poter competere con qualsiasi industria a livello mondiale, che è sicuramente un orgoglio dell'Italia e un modello da imitare. Sostenibile come impero come il vostro, è necessario guardare al futuro per l'economia? Certamente l'Italia ha bisogno di questo genere di imprenditorialità, perché è il paese della bontà, è il paese della bellezza, della creatività, e quindi riuscire a esprimere questi valori in un prodotto che poi riesce a competere a livello mondiale, dalla Cina agli Stati Uniti al Sud America, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per stimolare la nostra economia, esportando e creando occupazione nel nostro paese. Le vicende della Grecia, le vicende della Grecia. Grecia in attesa di presentare o di accettare un piano proposto dall'Unione Europea per sostanzialmente prendere più fiato, prendere un po' più di tempo il servizio. Oggi il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis invierà all'Eurogruppo la richiesta per l'estensione del prestito europeo e quanto ha fatto sapere in mattinata il portavoce del governo ellenico. L'allungamento riguarderà però solo il finanziamento, non l'intero accordo di salvataggio, che comprende quelle misure di austerità che il nuovo governo Tsipras ha più volte rigettato. Atene vuole avere più tempo per trovare un nuovo accordo con l'Europa, una richiesta che sembra ricalcare la proposta del commissario europeo Moscovici, poi sostituita lunedì dal presidente presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem con un'altra più rigida, bocciata da Atene. Da lì l'ultimatum ai greci che scade venerdì. Se il governo non chiede l'allungamento del programma di aiuti, non esiste un piano B. Bisognerà vedere quindi se le due parti troveranno un compromesso e se lo faranno in fretta. Gli accordi attuali scadono il 28 febbraio. Intanto oggi la BCE deciderà se confermare o meno il programma di supporto alle banche greche ed estenderlo per altre due settimane. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine vi vogliamo parlare di questo referendum, come si accennava all'inizio di questo podcast, un referendum votato ieri dalla Regione Lombardia, un referendum consultivo per dare mandato alla Regione a trattare con il governo per chiedere una maggiore autonomia. È un referendum, una proposta di referendum che ha ricevuto il voto positivo anche del Movimento 5 Stelle, che per questo ha ricevuto qualche critica. Abbiamo sentito Stefano Buffagni, che è consigliere regionale lombardo proprio del Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa ci ha detto. Assolutamente lo sappiamo, il problema è nell'informazione. Il quesito era nostro, quindi non abbiamo l'abbiamo chiamata qua apposta, quindi senti. Il quesito è il nostro, perché voi sapete che Maroni voleva il quesito sullo statuto speciale, che è incostituzionale. Noi non possiamo chiedere di coinvolgere i cittadini per decidere su qualcosa che non si potrà mai fare, che sarebbe poi diventata una bandierina. Abbiamo quindi fatto una proposta reale, perché condividiamo la necessità dei lombardi, ovvero di avere più risorse sul territorio. Non più tardi settimana scorsa anche la CGIA di Mestre ha fatto una stima di 60 miliardi di residuo fiscale quasi dei Lombardi. Attualmente il governo sta andando in una direzione di accentrare tutti i poteri sul governo stesso, neanche sul Parlamento, ma sul governo a Roma, e quindi noi abbiamo pensato e deciso che fosse necessario che a decidere su questo tema fossero i cittadini. Assolutamente. Buffagni, milioni è la stima corretta. 15 milioni è la stima corretta. Buffagni, io voglio leggere il quesito agli ascoltatori. No, volete voi che la Lombardia, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per chiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con relative risorse ai sensi e per gli effetti di cui è l'articolo 116 terzo comma della Costituzione? Ma mi scusi Buffagni, c'era bisogno di un referendum per chiedere alla regione di chiedere maggiore autonomia? Allora, questo processo era già stato iniziato anni fa con precedenti giunte, e il governo ha sempre comunque tergiversato e bloccato la situazione. Quindi è evidente che se va a trattare un governatore della Lega con un governo del PD diventa una diatriba politica. Nel momento in cui dovesse esserci un mandato popolare per fare questo tipo di decisione, la partita sarebbe molto diversa. Inizialmente ci hanno deriso tutti, PD compreso, che poi alla fine ieri sera ci è spaccato, perché conosce benissimo le esigenze del territorio, degli amministratori locali. Non è possibile che abbiamo diversi soldi bloccati per il patto di stabilità, non è possibile che si inizino delle opere senza sapere mai di chi è la colpa, perché c'è un rimpallo di responsabilità, e non è possibile, tra l'altro, che non si possa poter gestire maggiori risorse sui territori coinvolgendo i cittadini. Qualcuno giustamente dice che sono soldi buttati. Ecco, noi diciamo innanzitutto coinvolgere i cittadini non sono soldi buttati, allora a questo punto non mandateci neanche mai a votare. Ricordiamoci che noi siamo uno Stato nel quale, per poter difendere l'acqua pubblica, se non si faceva un referendum questi ci vendevano anche quella. Quindi attenzione, non dimentichiamocelo mai. E poi un altro aspetto, Maroni ha appena stanziato 60 milioni in 3 anni, togliendoli dalla sanità, per la Brebemi, che doveva essere un'opera interamente finanziata privata. Renzi a Roma ne è appena dati 300, l'anno scorso ci sono stati tolti 1 miliardo di euro dalla sanità. E lei dice, quindi a fronte di tutto questo questi 15 milioni dice non sono buttati, va bene? No, ma non è una cosa di buttare, è un investimento, perché sono comunque strutture che poi resterebbero per utilizzare anche in consultazioni successive, perché quante opere poi vengono fatte e i cittadini poi si oppongono ex poste. Vi ringrazio tutti come sempre per aver ascoltato il podcast di Effetto Giorno. Vi ricordo i nostri contatti: effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter Simone Spezia. Se volete mi trovate anche là, mi potete scrivere, ditemi quello che pensate, se avete critiche, giudizi, anche giudizi positivi eventualmente, non c'è problema, li accettiamo volentieri. Intanto vi ringrazio, ci risentiamo domani alle 13 e poi ovviamente con il podcast. Grazie per aver scaricato, iscrivetevi così avete gli aggiornamenti quotidiani. Buona giornata a tutti.